Ci rivediamo dopo una settimana. Sono stato lontano da voi perché sono andato a godermi 5 giorni di intimità col Signore, perché il distributore di benzina fa il pieno a tutti, ma poi deve arrivare l'autobotti anche per lui. E quindi ho fatto 5 giorni di ritiro personale alla scuola di Santa Faustina Kowalska e del suo diario. Dobbiamo metterci alla scuola dei santi. Ma sono contento ancora di essere qui in mezzo a voi perché, se sono vostro fratello nella fede, in un certo qual modo, un pochino, starei per dire mi sento un po' vostro padre nella fede. Ma da quando Gesù ha detto di non chiamare nessuno padre sulla terra, perché uno solo è il Padre che è nei cieli, allora io ho trovato altri nomignoli per me, sono un po' come vostro fratello maggiore, oppure mi piace chiamarmi anche se Gesù è il pastore, io sono il suo cane pastore, che lo aiuta nel tenere in riga il gregge di Dio. E allora vorrei continuare a presentarvi il libro dei Proverbi, questa volta il capitolo 16. Versetti 1-6, è un testo un po' più difficilino. Nella Bibbia ci sono testi più immediati e testi che vanno un po' studiati, un po' aperti. E allora, leggendo questi versetti, mi sono accorto che hanno lo stesso andamento tutti. Si parla dei progetti del cuore dell'uomo. Però la lingua deve muoversi spinta dal Signore. Agli occhi dell'uomo tutte le sue opere sembrano a posto, sembrano pure, ma che scruta gli spiriti è il Signore. Capite? L'uomo si muove, l'uomo fa, ma sempre il Signore è all'azione in lui. Affida al Signore le tue opere. Se tu le affidi al Signore, i tuoi progetti avranno efficacia. Il Signore ha in orrore ogni cuore superbo e certamente non resterà impunito. Vedete che ogni azione dell'uomo, un progetto, un cuore, una lingua, le opere, sono sempre in relazione con Dio. E se hai commesso una colpa, la espii con la bontà e la fedeltà. Ma se ancora non hai commesso una colpa, se tu avrai il timore del Signore, eviterai il male. Non so se sono riuscito a dirvi come si cammina col Signore. Allora io vorrei tentare, siccome nel mio parlarvi mi rifaccio sempre alla vita, perché sennò il Vangelo resta un bel poema, la parola di Dio che noi andiamo a scavare resta archeologia e basta, io cerco di tradurla nella pratica. Allora vi dico la mia esperienza, la mia personale, non ho paura di dirla. Qualcuno ha provato a dirmi sei superbo perché parli di te stesso. No, il mio cuore non è così. D'altra parte una mamma e un papà insegnano ai loro figli con il loro comportamento. Non si fa così. Io ho imparato da mia mamma a fare così quando io avevo la tua età. Tu trasmetti la tua vita, trasmetti il tuo latte. E allora anch'io cerco di fare ogni cosa con il Signore. Dal mattino quando mi suona la sveglia, con la destra la zittisco, poi con la sinistra tiro indietro le coperte e con la destra subito un bel segno di croce. Mentre guardo sul fianco del mio letto Gesù crocifisso e Maria, madre della Chiesa, e dico: comincio questa giornata con voi. E poi, mentre vado a riordinarmi in bagno, dico le preghiere del mattino. Ti adoro, mio Dio, Padre nostro, le preghiere del buon cristiano. Io proprio non capisco quelli che dicono che al mattino non hanno tempo di dire le preghiere perché chi deve andare a scuola, al lavoro. Io ho imparato da mia mamma, quando ero piccolino mi lavava la faccia, me la insaponava, e io mi facevo dire le preghiere, io brutolavo un po' per non farmi entrare il sapone in bocca, ma pregavo mentre mi lavava la faccia. E poi mi metto a tavola un segno di croce. Io ai bambini dico sempre che il mio cane non faceva il segno di croce prima di mangiare la pappa. E io voglio essere un cristiano, non voglio essere una bestia. E poi se mi metto in macchina, angelo di Dio, con quei quattro bellissimi verbi, illumina, custodisci, reggi e governa me. Ti sono stato affidato dalla pietà celeste. E poi quando vado in bici o in macchina e vado in giro e vedo magari una persona malmessa, Signore, te la affido. O vedo una donna con tre bambini e dico, certamente è una musulmana, perché i nostri non fa mica tre figli uno dopo l'altro, anzi, va bene se ne fanno uno, no, due per sbaglio. E dico, Signore, ti affido quei tre bambini e la mamma. Ma sono musulmani? No, sono figli di Dio. Sono figli di Dio. E così, e percorro la mia giornata e poi arrivo alla sera, la chiudo con le preghiere della sera, col segno di croce. A me sembra di fare anch'io come dice il libro dei Proverbi, no? Affida al Signore le tue opere e i tuoi progetti, grazie a Lui, avranno efficacia.